La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo lunedì 22 febbraio, 16:31, primi 14 secondi, siamo in diretta da Milano, Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto come sempre. È una puntata, e quindi vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar che lascio radio24.it, che nasce da tra le tante segnalazioni di ascoltatori che ci dicono meno tasse, la riforma della PA, queste sono le mie esperienze, non mi pare proprio, e quindi diciamo io accosto questi tre ascoltatori che ci hanno segnalato i loro casi come siamo ancora sudditi. Magari voi avete un'impressione diversa, avete visto significativi e apprezzabili cambiamenti in questo 2015-2014, in qualche caso chiamateci per dire come la pensate, se avete visto queste significative novità che costituiscono oggetto di un'insistenza pressoché quotidiana da parte del governo. Io riconosco al governo le sue intenzioni, i suoi interventi, il Jobs Act, la decontribuzione massiccia alle imprese, eccetera, eccetera. Questo però non mi esime, come sapete, dal dire le cose come stanno rispetto a quelle che vengono presentate. E quindi noi avremo un ospite dei tre che ci racconta la sua esperienza, e poi vi leggerò invece da parte di altri due le lettere che ci spiegano come si trovano ad affrontare circostanze che non mi sembrano così significativamente mutate. Naturalmente non è un sondaggio, questo non significa negare c'è stata una ripresa della crescita, però ricordiamolo che nei quattro trimestri alle nostre spalle del 2015 la crescita è stata nel primo trimestre del 2015 più 0,4%, nel secondo più 0,3%, nel terzo più 0,2% e nel quarto più 0,1%, quindi la tendenza è a indebolirla la ripresa della crescita, non a rafforzarla. Quindi questo è il tema di fondo, naturalmente accompagnato dalla consueta precisazione sulla spesa e le tasse, visto che ancora ieri all'assemblea del PD veniva detto noi le tasse le abbiamo diminuite, i numeri ufficiali dicono di no. Io non so cosa farci, però il mio compito è ricordarlo a tutti. Le ripasseremo un secondo. Nel frattempo consentitemi però di fare un'ulteriore considerazione, perché è uscita proprio tre quarti d'ora fa, lo trovate sul sito del governo, quindi www.governo.it, il position paper, cioè il documento ufficiale del governo italiano su l'Unione Europea, le modifiche chieste alla governance, che cosa è necessario fare in politica economica, sulle banche e così via. E io vi invito a leggerlo, perché dopo i mesi che abbiamo da fine novembre a oggi di tuoni incessanti quotidiani da parte del governo italiano, e con Renzi che ha fatto una battaglia esplicita, gli va riconosciuto, del fatto che l'Unione Europea deve cambiare, non se ne può più, basta con l'austerità, qualunque cosa questo voglia dire, visto che abbiamo un deficit al 2,5% del PIL previsto e in rialzo nel 2016. Ma detto questo, ha più volte attaccato la Commissione Europea, la governance incentrata sulla Germania, dicendo che c'è bisogno di più flessibilità sui bilanci, dicendo che in materia bancaria le cose non vanno. Molti hanno interpretato questa posizione come una richiesta di moratoria del bail-in, della direttiva BRRD, con le nuove norme sulla risoluzione delle banche in Europa. Questa è la posizione ufficiale dell'ABI, questa è la posizione di moltissimi giornali italiani, tra cui il Sole 24 Ore, che ne fa una campagna. Ieri ancora l'assemblea del PD, Renzi ha detto domani vedrete il position paper dell'Italia uscire. Io vi invito a leggerlo, davvero. Io l'ho letto e sono, come devo dire, sardonicamente incredulo. Vi invito a leggerlo, sono 9 cartelle, il testo che trovate in inglese, ma insomma è chiarissimo. C'è una cosa per me molto apprezzabile, cioè c'è una richiesta di adottare uno strumento comune europeo per la lotta alla disoccupazione, per iniziare a costruire un welfare comune che dia l'idea a tutti i cittadini europei che ci sono strumenti davvero comuni, con regole più o meno comuni, naturalmente tarati sulla parità di potere d'acquisto e il reddito medio di ogni paese, però strumenti di lotta alla disoccupazione comuni, per iniziare a costruire un pezzo di Europa che parli la stessa lingua, con le stesse regole su come si sostiene chi perde il reddito e l'occupazione. Questa è un'ottima cosa, io da anni la sostengo ed è un'ottima cosa. Ma sulle cose su cui c'è la polemica aperta, sollevata dall'Italia alle regole europee, cioè le regole di bilancio e quelle bancarie da novembre a oggi, io vi invito a leggere il documento. sembra un documento venire da un ministero dell'economia di un altro governo rispetto alle parole usate nelle polemiche pubbliche in Italia. Quanto infatti all'interpretazione della flessibilità di bilancio, c'è scritto testualmente che l'ultimo documento della Commissione europea, attaccata frontalmente su questo da Renzi, sulla flessibilità, nell'interpretazione della flessibilità per quanto attiene al patto di crescita e stabilità, c'è scritto testualmente che il documento della Commissione crea gli appropriati incentivi per equibilanciare insieme riforme e investimenti rispetto alla necessità di rigore, cioè sposa integralmente l'attuale norme sulla flessibilità di bilancio della Commissione europea, tanto che sembra scritto dalla Commissione europea, mi sembra lontanissimo rispetto alle polemiche fatte con la Commissione europea richiedendo più flessibilità. Questa è la frase che vi ho letto. E c'è scritto ulteriormente che le interpretazioni della Commissione rafforzano il coordinamento tra le riforme strutturali e le riforme fiscali che sono necessarie per avviare un circolo virtuoso che unisca insieme il rigore e lo sviluppo. Credo che la Commissione europea non abbia niente da ridire, tranne il fatto che poi se ci arriva la procedura di infrazione quest'anno o la contestazione sul fatto che il governo dichiara di abolire le clausole di salvaguardia fiscale previste secondo le regole europee, qui c'è scritto l'opposto, non so cosa dire, ma io sto leggendo il documento. Quanto alla parte bancaria, idem con patate, perché dopo aver richiamato, giustamente, questo è giusto, la necessità di por mano subito a un finanziamento condiviso dello strumento che garantisca i depositanti di tutti i paesi dell'Unione bancaria, sapete che i tedeschi sono restii, e questo niente di nuovo ed è sacrosanto. A proposito invece della BRRD, molti credono che il governo italiano si avvia a chiedere la moratoria, la sospensione, perché i tedeschi ci avrebbero beffato, perché siamo noi esposti, perché siamo i virtuosi, perché non è vero che abbiamo questo credito deteriorato per colpa di decenni di pratica degli affidamenti bancari agli amici degli amici, eccetera eccetera. Qui c'è scritto il contrario nel documento del governo, perché c'è scritto che grazie all'implementazione della BRRD sono stati fatti, anche qui sto traducendo, sostanziali aggiustamenti che influenzeranno il comportamento degli stakeholders delle banche per incorporare i nuovi rischi nel loro atteggiamento previsti dalla BRRD, cioè il fatto che non si viene salvati dallo Stato, e come sapete c'è una progressiva esposizione e in caso di risoluzione bancaria prima le azioni, poi le subordinate, le obbligazioni subordinate e via via a scendere fino ai depositanti a 100.000 euro. E c'è scritto poi in aggiunta che l'attuazione della direttiva ora comporta la necessità di mettere in atto tutte le necessarie migliori informazioni e comunicazioni e trasparenza in quanto ai rischi al mercato. Non c'è scritto né moratoria né che è uno strumento asimmetrico per fare la guerra alle banche italiane, eccetera eccetera. Allora, questo è quanto c'è scritto nel documento. Ripeto, sì al sostegno con uno strumento comune alla disoccupazione europea, mi sembra una bella proposta, ma quanto alla finanza pubblica e alle banche, io mi rifaccio questo documento ufficiale e chiedo a voi, ma se questo è il documento ufficiale, perché dire il contrario nelle polemiche quotidiane italiane? Ne guadagniamo in credibilità, secondo voi? Ma io non lo so, ciascuno la pensi come crede. Forse è scritto da un MEF con Padoa-Schioppa più prudente, ma qui non si tratta di essere prudenti, qui si tratta di dire l'opposto. Questa è la mia opinione. Allora, abbiamo intanto, dopo avervi detto questo, il nostro primo ospite di oggi, che si chiama Benedetto Costa Broccardi, e ci ha scritto una mail, devo dire, molto bella, che io invito a ripetere qui, a esporre il suo caso. Il titolo di questa mail era «Elogio del cravattaro e grazie a Benedetto Costa Broccardi di essere con noi». Buongiorno. Allora, lei parte dal dire «In Italia ci siamo dati delle leggi per combattere l'usura e lo strozzinaggio». Sì. Tanto mi scusi se non ripeto esattamente la storia, no, come l'ho scritta, certo. Ma sono in impianto e sto ci mancherebbe. Lavorando. Le permetto che io non ho un problema col sistema Equitalia, nel senso che nel mio caso in questo momento si sta rivelando uno strumento utile e ho trovato sempre funzionari più che gentili considerando il tipo di pressioni che subiscono. Certo. Detto questo, mi fa un po' ridere, mi ha fatto ridere, ho pensato proprio all'elogio del Cavattaro, la storia che ho vissuto in questi mesi. Perché banalmente io ho un'azienda che è andata in difficoltà perché i suoi clienti sono andati tutti a bagno, quindi ho avuto ovviamente insoluti come tutti, e devo dire che ho sfruttato la possibilità di posporre i pagamenti attraverso Equitalia, quindi ho fatto una rateizzazioni. Ora ti insegnano che devi stare attento a non sforare mai, perché se sfori, allora fine novembre io mi presento in Equitalia per fare una nuova rateizzazione, mi viene segnalato che la rateizzazione che per me era appena finita risultava scoperta per il montante di novembre più per una porzione di ottobre. Allora io, per evitare problemi, quando faccio la mia domanda recupero i RAV, recupero i miei rendiconti bancari, li aggiungo alla pratica e devo dire mi viene data l'ulteriore rateizzazione, per cui sono convinto di aver risolto tutto. Se non che il 18 gennaio mi presento di nuovo in Equitalia per una nuova rateizzazione, come l'ho scritto l'azienda va maluccio, e salta fuori che ancora queste rate sono insolute e che sono scoperto per 300 euro. Allora io un po' in panico, mi scusi, ma quale rata non sarebbe pagata? Perché io sono certo di aver pagato tutto. Non glielo posso dire. Come non me lo può dire? Sa, noi abbiamo un sistema per cui quando arriva un pagamento scarichiamo la rata più vecchia. Quindi fondamentalmente che succede? Che se tu non paghi una rata, poi il mese dopo paghi regolarmente, viene scaricata la precedente e quella che tu hai pagato nella tua testa risulta essere ulteriormente scoperta, aumentando ovviamente del montante degli interessi che nel frattempo sono cresciuti, interessi di mora che ho calcolato essere un 7%. Certo, un po' singolare come software, però vabbè. Beh, è un meccanismo un po' perverso, ma va bene. A questo punto io, miracolo, vado in ufficio, mi ritrovo tutti i RAV, tutti i rendiconti bancari, mi presento di nuovo in Equitalia facendo la mia ora di coda, perché puntualmente c'è coda, e di fronte all'evidenza che io ho dei timbri della banca che ho pagato tutto, lo stesso funzionario si mette a scartabellare, tutto questo ovviamente in elettronico, cosa che poteva fare già la volta prima, e salta fuori che molto probabilmente ha una rata di agosto 2014. Al che dico, guardi, o avete sbagliato voi a registrarlo, o io vi sto dando dei documenti falsi e non lo sto facendo, o ha sbagliato la banca, c'è un errore, vediamo di risolverlo. Mi presento in banca, ovviamente la banca nel frattempo ha chiuso la mia agenzia, per cui i documenti sono in centrale, quindi non andrò a chiedere. 15 giorni dopo mi chiamano e mi comunicano che effettivamente hanno fatto un errore loro, per cui si scusano tanto e si pagheranno le more. Mi ripresento in Equitalia, dove vado a farmi dire il montante, che nel frattempo da quasi 300 euro è salito a 325, perché è stato felicemente promosso a, oddio, usano un termine raffinato per dire che ormai è un insoluto, e quindi mi hanno fatto la notifica che ovviamente io non ho mai ricevuto. Mi ripresento in banca per dire possiamo pagare? No, non si può pagare. Perché non si può pagare? Perché io non ho ancora ricevuto la cartella. Allora, non avendo ricevuto la cartella, io ritorno in Equitalia, che ovviamente è chiusa. Mi ripresento la mattina dopo e estorco, giuro estorco, da sotto una pila di non so quanti documenti, un IBAN, strumento misterioso, e con questo strumento misterioso mi presento in banca dove pago e mi riporto un'altra volta in Equitalia, perché avendo io una richiesta di rateizzazione in sospeso, volevo che venisse registrato che avevo fatto tutto giusto. Beh, non si può registrare, non si può protocollare, perché loro non lo sanno, non l'hanno visto. Nel frattempo mi comunicano che il montante è salito di 6 centesimi, gli chiedo di pagare, non si possono pagare i 6 centesimi. Allora, alla fine di tutta questa bella storia, io mi ritrovo che ho pagato. Da un punto di vista economico, la banca si prenderà il suo carico. Però io noto che avevo una rata di 214,14 euro, che è diventata una rata di 325 rotti in 18 mesi, anzi, per la precisione, 17 mesi e 23 giorni. Ma per fortuna che era, la rata era di 214, perché sennò un aumento del 50% era micidiale. Il 52%, il 55% anno. Ora io sono andato a vedermi, perché mi ha fatto ridere questa storia, mi sono andato a vedere la Banca d'Italia. In Banca d'Italia vengono indicati tutti i tassi di usura. Mi sembra quello applicabile, che ho scoperto, fino, mi sembra, a 500, è il 18%. 18% è esattamente la metà del 35%. Allora, a me, perché dico l'elogio del cavattaro? È evidente che è ironico, è un mestiere orrendo, io ho avuto un nonno che ci è finito in mezzo e non è per niente divertente, ma detto ciò, poveretti, quelli hanno un sistema di notifica e di riscossione dei crediti che gli costa un sacco di soldi, va bene non fare appeal perché sono in nero, però è almeno efficiente, ti vengono e ti spiegano esattamente perché gli devi soldi. Ora, nel XXI secolo una struttura come Equitalia dovrebbe essere in grado di informare i cittadini che c'è stato un errore, hanno le PEC, hanno tutto il necessario per darti un'informazione che non gli costa nulla, e invece il risultato è che dopo 18 mesi io mi sono ritrovato a pagare il 52% in più. Ripeto, per me non è un problema, lo paga la banca, ma la stessa banca che per ogni RAV, che è questo strumento di pagamento, non è un'automobile, mi prende 70 centesimi, adesso ne paga 120 di posizione, quindi la banca ci ha perso dei soldi. Ha fatto un errore, siamo d'accordo. No, per carità, ma il fatto è che qui siamo in presenza di un tasso del 35% annuo. Nei fatti questo è vero che non è, ripeto, per me è tutto lecito, tutto legale, ma il punto è che i costi di notifica sono dei costi che sono di Equitalia, mi è stato fatto notare che gli interessi vanno all'INPS, perché in questo caso la rateizzazione è INPS, quindi che sono strutture diverse, ma io da cittadino ho a che fare con lo Stato. Ah, certo. Io non riesco a pensare che Equitalia non sia INPS, per me è sempre mamma Stato. E lo Stato si è preso il 35% annuo su un errore. Mentre sempre lo Stato dice che però oltre il 18% per scoperte di questa entità sarebbe usura. Allora, io ringrazio Benedetto Costa Broccardi che con questo racconto mette il dito nella piaga in quello con cui hanno a che fare, come si vede, contribuenti onesti che si avvalgono della facoltà di rateizzare, pagano, c'è un errore che non è loro e scatta un meccanismo tale per cui entrano in un loop, a parte il tempo, tutti i necessari passaggi e così via. Ma quello che conta è che costa tra loro e la banca che ha commesso l'errore un tasso che è intollerabile. C'è stata la delega fiscale? Sì, abbiamo fatto qualche passo avanti sulle norme, sì, altri le abbiamo fatte indietro, ma questa è la realtà che resta in Italia ed è una delle tantissime lettere che ci segnalano casi analoghi, con tassi analoghi. Hai voglia a fare fisco amico, lo dico agli amici del Sole 24 Ore, il fisco con questi tassi non è amico, è incomprensibile per chi, ripeto, come Benedetto, le tasse le paga. Grazie Benedetto Costa Broccardi, torniamo tra un minuto perché ho due lettere da leggervi. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta alle 16:50 primi. Una precisazione su spesa e tasse in Italia nel 2015. Ancora ieri, per chi leggesse solo 24 ore, avete trovato un intervento del consigliere del Presidente del Consiglio, Joram Gutgeld, secondo il quale tra 2014 e 2015 il governo Renzi ha messo in atto contenimenti della spesa, degli incrementi di spesa, intervenendo sul tendenziale, superiori a quelli mai visti in tutta la storia italiana, superiori a quelli di Monti, superiori a quelli di Cottarelli, 25 miliardi di euro. Poiché non venivano dettagliati, uno legge e dice: accidenti, però, che roba. Allora, forse è il caso di andare a vedere quello che dice Banca d'Italia su entrate e spese nel 2015. Anche qua, fonti ufficiali, non c'è trucco, non c'è inganno. Uno può dire quello che vuole, ma intanto nel 2015 la spesa corrente del bilancio pubblico è passata da 483,8 miliardi del 2014 a 536,4 miliardi, da 483,8 a 536,4, stiamo parlando della spesa corrente, mentre le entrate tributarie, quindi lasciando poi da parte il totale delle entrate fuori da quelle imposte più contributi, quelle patrimoniali, one-off e così via, le sole entrate tributarie sono salite da 405,5 miliardi, 407 miliardi e mezzo nel 2014, a 433,4 miliardi nel 2015. Quindi il totale della spesa corrente nel 2015, da gennaio a dicembre, è cresciuto di 52,6 miliardi, cioè più 10,8% rispetto all'anno precedente. E la variazione più significativa è stata nel mese di agosto, in cui solo nel mese di agosto sono cresciute le spese correnti di 31 miliardi e sono cresciute in tutto l'anno di 52,6. Per le entrate tributarie, l'aumento di 25,9 miliardi è uguale a un più 6,3% rispetto al 2014. E qui il mese in cui si è registrata la variazione più significativa è dicembre, quindi a fine anno del 2015, e solo a dicembre è cresciuto il gettito introitato di 11,6 miliardi, cioè più 16,9% rispetto all'anno precedente. Queste sono le cifre. Dopodiché, di fronte a queste cifre qua, ciascuno può dire quello che vuole, ma queste sono le cifre ufficiali. E anche se fate la percentuale sul PIL, le entrate tributarie sono aumentate sul 2014, non diminuite. Io non so cosa dirvi, sono le cifre ufficiali, quindi questa è la cassa, cioè Banca d'Italia, però è così. Poi credete a chi volete, ma intanto andate a vedere se queste sono le cifre ufficiali. Allora, abbiamo intanto due telefonate e poi procedo alla lettura di almeno una delle altre due lettere che abbiamo. Vincenzo da Roma, prego Vincenzo. Sì, buonasera Giannino. Sì. Dunque io vorrei parlare di errore concettuale che si fa valutando il problema Italia, che è quello sostanzialmente che noi andiamo appresso agli effetti del socialismo che ormai si è instaurato in Italia, perché pure per il malaffare che questo genera, perché lo Stato si comporta, o meglio i governi usano lo Stato per esigere ricchezza da chi la produce e poi a loro piacimento la elargiscono, la redistribuiscono a chi vogliono, e in questo c'è già del marcio, diciamo così. Io mi auspicherei piuttosto che si invertisse la cosa, cioè che il governo in Italia fosse una sorta di amministratore di condominio. Nell'amministratore di condominio ogni condomino, ogni appartamento paga la giusta quota di mensile. Non c'è l'amministratore di condominio che decide di far pagare più agli altri per donare a questo o a quell'appartamento, né tantomeno rialloca, come e tantomeno rialloca. Lo so, Vincenzo, però questa sarebbe proprio la rivoluzione. Io, se vuole, le chiedo dove si firma, ma credo che finiamo in minoranza, perché per quanto questo è un esempio concreto di come funziona, però finiremmo in minoranza assoluta. Nicola da Bologna, ma deve essere rapido, Nicola. Pronto, sì, rapidissimo. Allora, la mia storia è che avevo dimenticato una rata della refezione scolastica al comune di Bologna di 21 euro. Mi sono indicato, c'è stato passaggio di conto corrente, allora mi è sfuggito. Allora mi arriva una cartella esattoriale, una cartella dal comune, di 59 euro. Quindi è aumentata del 120%. 20%. Allora chiamo, dico, ma scusate, ma 59 euro su 21 euro? Ah, ma sai, dopo i 21 euro scatta un'aliquota che è uguale per tutti. Se io avevo la retta di 300 euro, avrei pagato sempre 25 euro. Dico, interessante come la proporzionalità delle classi che scattano. Allora, ci sarebbero tanti altri che vogliono telefonare. E solo per darvi una piccola prova, ecco, apriamo gli occhi, teniamo le orecchie aperte, non facciamoci foderare di prosciutto sia le orecchie che gli occhi. Questo è il mio modestissimo consiglio. Poi pensatela come volete. Continuate sulla 24, appuntamento domani alle 8:15 con Alessandro Milano e me per Attenti a noi due.